X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Angelina Jolie si è fatta rimuovere le ovaie e le tube di Falloppio per evitare il rischio di sviluppare un tumore alle ovaie. Ho passato tutta la vita ad avere paura. Paura non esiste. Il cancro si vive, non si muore soltanto. Il cancro non è una maledizione, il cancro non è una dannazione. La parola cancro è una parola che nell'accezione comune significa ancora morte, purtroppo. E sappiamo tutti che non è così, o meglio, non è più così. Oggi più nessun giornalista ha il coraggio di dire male incurabile. Bisogna accogliere sul serio il paziente. È cambiata totalmente la storia dei tumori, la storia del cancro, che oggi si può guarire e che oggi si può avere una qualità di vita adeguata. La parola cancro, quando viene pronunciata a un paziente, scatena subito la paura della morte. La proposta di oggi è sull'abolizione della parola cancro. Può essere utile o è inutile. Quando siamo uniti, siamo molto più forti. Tutti insieme possiamo mettere il cancro all'angolo. Professor Roberto Recchia, direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, lo IEO. Oggi si ammala di tumore un italiano su 3, 50 anni fa uno su 30. Significa che 20 milioni di italiani sviluppano la malattia nel corso della propria vita. Eppure il 70% dei casi, cioè 14 milioni di persone più o meno, potrebbero essere salvati con la prevenzione. Professore Recchia, perché c'è ancora tanta diffidenza intorno alla prevenzione dei tumori? Ma perché nonostante i progressi nella conoscenza e anche lo sdoganamento della parola cancro, esiste sicuramente ancora un timore nell'avere, diciamo, la possibilità di verificare attraverso immagini o diagnosi di avere questo tipo di malattia. Ecco, voi professore allo IEO avete proprio, l'ha detto, intrapreso quasi una battaglia culturale partendo proprio dal pronunciare la parola cancro. Perché? Cosa vi aspettate da questa scelta? Ma direi che il cancro non è la malattia peggiore di cui purtroppo il genere umano possa essere afflitto e quindi va affrontata in maniera molto concreta. Le possibilità oggi di guarigione o comunque di poter cronicizzare la malattia sono assolutamente consistenti, non ci sono stati miracoli ma ci sono stati progressi significativi e quindi va affrontata in maniera assolutamente concreta. Il paziente deve essere protagonista di questa scelta di confrontarsi con la realtà. Identificare un tumore iniziale significa curarlo con molta più efficacia, con trattamenti meno tossici? Assolutamente sì, significa avere una chirurgia meno invasiva, avere la possibilità di praticare trattamenti conservativi come ad esempio la radioterapia o le altre tecniche che implicano energie fisiche. Significa, diciamo, avere un avversario più piccolo e quindi le probabilità di farlo fuori aumentano. Assolutamente. Ecco, senta, ma quindi il modo di curarlo è cambiato molto? Assolutamente sì, anche questo molto, perché naturalmente si è spostata l'attenzione non solamente sulla malattia ma sull'ospite che di cui la malattia è affetto. Cioè il malato. Sì, il malato, ecco. Sì, il malato e in qualche caso anche sul soggetto ancora sano che però ha un rischio di sviluppare una malattia. Quindi sicuramente c'è stato... Ma quindi la prevenzione si fa attraverso quali esami soprattutto? Non c'è un unico esame che consenta di prevenire tutte le situazioni. Ciascun tumore o ciascuna sede tumorale ha un suo esame, dai più classici, più consolidati, come la mammografia per lo screening del tumore del seno, la colonoscopia per l'intestino, il pap test per l'utero, sino ad oggi con l'apertura, diciamo così, ai profili genetici e molecolari si è aperto un orizzonte in cui è possibile con un prelievo andare a vedere alcune caratteristiche che esprimono delle probabilità. Sì, quindi la cura su misura per ogni malato di tumore, che era un sogno nato una quindicina di anni fa, quando si è aperta l'era del DNA, non è più tanto sogno. Esattamente, non è più tanto sogno, non è ancora ovviamente pienamente realizzato, e questo sarebbe un messaggio, come dire, certo, non corrispondente al vero. No, assolutamente. Ma sicuramente oggi è possibile personalizzare molto le situazioni collegando parametri molecolari a parametri clinici, cosa quindi, che in passato era molto più complesso più fare. Quindi non dobbiamo neanche immaginarci schiavi del nostro DNA, perché possiamo in qualche modo il nostro destino cambiarlo anche attraverso fattori diversi, stili di vita, ambientali o farmaci, è così? Questo sì, possiamo avere effettivamente un ruolo attivo, non tanto sulla struttura stessa del DNA, ma tutto quello che ci sta intorno, no? Il cosiddetto epigenoma, tutta quella nuvola molecolare che sta intorno al DNA, e lì indubbiamente vari fattori ambientali, usi abitudinari propri, il fumo, l'alimentazione, certo, eccetera, eccetera, ha sicuramente una possibilità di modificare questo aspetto in un senso o nell'altro. Ma che cos'è la medicina delle 5P? La medicina delle 5P è un concetto che è emerso qualche anno fa e prevede appunto la possibilità di esercitare un'azione di predizione, cioè andare in anticipo sul paziente, non sul paziente ma sull'individuo sano, sulla persona, sì, di vedere quali sono gli elementi di rischio, quindi anche di mirare la prevenzione in rapporto a quelle che sono la probabilità di sviluppare una malattia. Naturalmente prevede la partecipazione del paziente, cioè la medicina, esatto, si sposta, certo, dal medico centrico a persona centrico, e consegue tutto questo ovviamente una maggiore personalizzazione, sì, del trattamento, che va accompagnata, e questa è la quinta P, diciamo, aggiunta, sì, più recentemente, da un supporto, un'assistenza psicologica al paziente, e soprattutto al soggetto sano, esatto, perché quindi ogni cancro è diverso e mette il paziente di fronte a delle scelte continue, a scegliere di prevenire, di combattere o di finire la propria vita. Insomma, non bisogna subire passivamente, bisogna sapere che si è protagonisti. Si può avere un ruolo attivo, questo magari non tutti ne sono ancora consapevoli, ma si può avere un ruolo attivo. Chiaramente bisogna un po' adeguarsi nelle proprie abitudini, ecco, e anche non ultimo le questioni ambientali, che andrebbero affrontate in maniera, diciamo, coerente con questo. Quando dice ambientali, cosa intende? Intendo, viviamo in un mondo in cui diciamo le sostanze con le quali, certo, veniamo a contatto sono quelle che magari decidiamo di aspirare fumando una sigaretta, ma sono anche quelle che involontariamente respiriamo, andiamo ad assumere. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 66, l'SMS. Scusi, io non capisco niente di queste cose. Ho una malattia. È un tumore maligno. Un tumore? Sì. Non ha alcun senso, dottore. Insomma, non fumo, non bevo. Faccio la differenziata. Neurofibrosarcoma schwannoma. Ma che roba è? Ah, che sfiga. Più sillabe ci sono, e peggio è. Qual è la casistica? Quanti guariscono? Non lo so, la probabilità è 50 e 50, ma l'ho visto su internet. Non è così male. È meglio di quanto pensassi. Andrà tutto bene. 50 e 50. Se stessi giocando a casino avresti ottime probabilità. Ogni mattina è speciale adesso. Di questo sono grato. Vorrei imbottigliare questa emozione che provo per la bellezza di ogni ultimo respiro di vita. Non la spaventa tutta questa faccenda del cancro? Me la faccio sotto. Penso che lei sia fottutamente coraggiosa. Ecco, reagire con forza, con ironia al cancro sembra possibile solo nei film, come abbiamo sentito. Sicuramente una persona che nella vita vera ha trovato questo coraggio e la capacità di cogliere il senso profondo della sfida che la vita gli ha riservato esiste. Leonardo Cenci è un ragazzo con una vita normalissima, agente di commercio, una fidanzata, tanti amici, finché ha scoperto di avere un tumore al cervello e uno al polmone. Ma cosa ti avevano detto i medici? Niente, diciamo che in prima diagnosi a mamma e papà avevano dato un'aspettativa di vita che era di alcuni mesi. Nel senso, ed eravamo nel luglio del 2012? Esattamente la prima candelina, diciamo, quando è nata la mia patologia cancerogena era il 9 di agosto 2012. E tu hai detto che il braccio di ferro con il cancro è stata la tua più grande opportunità. È una cosa, sì, fortissima. Perché? Sì, è forte, però ho avuto veramente il dono, probabilmente da Dio, di metabolizzare un'apparente notizia tragica come una grande opportunità, perché ho accettato questa croce da poter indossare e ho cominciato veramente a capire da poco, veramente da dopo 3 giorni dalla patologia, come una resurrezione, ci ho visto un'opportunità enorme, che è quella di veramente avere una vita piena, cioè di godermi veramente ogni istante senza fare il progetti per il futuro e quant'altro. Quindi cioè la tua vita, godermi la vita ora. Tu dici che la tua vita è ricominciata da quel giorno praticamente, eh? È una vita nuova, assolutamente sì, perché comunque il cancro vuole il suo contributo, di conseguenza ecco, lascia molti deficit funzionali, organici, fisici e quant'altro. Ma che cosa hai fatto quando hai avuto questa notizia, dopo averlo detto alle persone che ti erano vicine, come hai reagito? Io ho pensato bene subito da dire ok, grazie Dio, mi hai dato il cancro, adesso io cercherò, visto che comunque ci dovrò convivere fino a che io vivo, con massimo rispetto, e l'ho trattato non come un nemico ma come un ospite non invitato da me, quindi ha fatto sì che me lo sono indossato, perché comunque se me lo fossi fatto nemico ho pensato bene che avrebbe vinto lui, perché comunque è più forte, è più coraggioso, è più stronzo, è più feroce, e quindi non avrei avuto chance. È come se in un duello io avessi avuto la fionda e lui la pistola. Davide e Golia, insomma. Ecco, bravo, sì, dai, la metafora perfetta. Ma ha vinto Davide quella volta. Sì, ma anche io ho già vinto, perché rispetto ai 6 mesi di diagnosi, ora siamo arrivati che il 9 agosto 2015 accenderò la terza candelina con il cancro e veramente già mi ritengo miracolato. Un grossissimo aiuto è stato proprio ecco questa mia forza della mente di accettarlo e di conviverci in maniera serena, cercando di fare una vita quanto più normale possibile, perché a livello mentale praticamente ero come se fossi stato un malato che non si ammala. Ma che cosa è cambiato nel tuo stile di vita? Fare una vita normale il più possibile, cosa vuol dire? Dal punto che tu fai tutte le cure, naturalmente fai tutte le cure, le chemie eccetera, no? Io ho già fatto sì 12 cicli di chemioterapie, le radioterapie per le metastasi del cervello, e adesso sono sottoposto a un farmaco diciamo molecolare, che ogni giorno devo prendere 5 pasticconi a somministrazione, che sono meno diciamo fastidiosi che le chemioterapie, però non è come prendere una tachipirina del paracetamolo, nel senso che sono comunque bombe abbastanza critiche. Ma nel tuo stile di vita che cosa è cambiato? Nel mio stile di vita niente, ho dovuto soltanto rallentare un po', perché comunque continuo ad andare in palestra 5 volte alla settimana, continuo ad andare a fare una corsa 3 volte alla settimana, ma io sono un ex maratoneta. Accidenti, quindi ecco, cioè, certo, ora le maratone non le faccio più, faccio le corsette. Sì. Questo è cambiato, ma cioè, adesso... nel senso che io faccio la stessa vita che facevo quando stavo bene. Ma vai in giro a spiegare ai malati come affrontare la malattia, insomma sei diventato una specie di testimone, di divulgatore scientifico. Qual è la cosa più importante in questa comunicazione con le persone che soffrono come te? Beh, diciamo che io sono veramente molto ascoltato dai pazienti che appunto vado a sostenere 2 o 3 volte la settimana, perché ovviamente sono una testimonianza diretta che se noi vogliamo farcela abbiamo un'opportunità veramente concreta per riuscirci, perché ognuno di noi, dico a malati di cancro come me, abbiamo un potenziale enorme, però molti, vuoi perché fa paura soltanto la parola, vuoi per la inaccettazione, vuoi per la rabbia che comunque non si sono mai diciamo confrontati con se stessi rifiutando la malattia e non accettandola, di fatto così non si fa altro che alimentare la ferocia del cancro, e io ecco cerco di donargli veramente quella serenità che credo ogni persona malata dovrebbe avere. Ecco, ma tu hai fondato anche un'associazione Avanti Tutta, cioè? Esatto, Avanti Tutta fu le mie prime 2 parole che dissi quando diciamo ebbi una crisi vagale durante la prima broncoscopia, che volevano prelevarmi il tessuto diciamo, neoplastico, la massa tumorale, per vedere che tipo di cancro si trattasse. E ecco, mi ha detto mio papà che io ho perso conoscenza per alcuni minuti, insomma, mi hanno intubato e tutto, è passata anche veramente una certo. borderline tra la vita e la morte. Poi mi sono ripreso e ho aperto gli occhi, ho visto, ecco, mamma e papà, e gli ho detto avanti tutta. E da lì, ecco, quando sono stato in condizioni un pochino più migliori e più forti, ho fatto una scelta di vita molto importante, lasciando proprio la mia professione da, ecco, responsabile commerciale in una grossa azienda, un SPA di Perugia, e ho deciso di fondare questa associazione Ollus perché avevo proprio desiderio e passione di cercare di migliorare veramente la qualità della vita dei malati oncologici, che magari nessuno purtroppo ha un atteggiamento come il mio, no? Quindi vive le proprie giornate con uno stato d'animo veramente negativo. Leonardo, il tuo esempio è certamente una cosa che dà tanta forza alle persone che ti vogliono bene, però mi sembra che sono riuscite a starti vicino, a darti l'aiuto di cui in qualche modo... Sì, assolutamente, nella maniera proprio più assoluta, nel senso che io oramai, ecco, nel social sono veramente come l'étoile del Bolshoi, sono un punto di riferimento, sono veramente una persona che, ecco, ricevo molti feedback che sono il loro esempio di vita. E ti dà tanta forza questo. È assolutamente. Cioè, e ne dai, dai tanta agli altri. Esatto, sì, poi io sono certo che fin quando riuscirò a condurre una vita così, diciamo, altruistica e solidale, il buon Dio sa che ancora servo in questa vita terrena, e poi lui deciderà quando sarà arrivato il mio turno e io serenamente andrò in vita migliore. Proprio sono molto sereno, sono certo che appunto mi darà una mano, ecco, questo mio modo di, sì, di operare. Ma qual è la parola chiave della tua vita oggi, qual è? Diciamo generosità, trasparenza e ottimismo. Ho visto che avevi, sì, ho detto che avevi una fidanzata e ce l'hai ancora? Sì. No, io ho fatto una scelta di vita che ho deciso per il mio bene di condurre, diciamo, le redini da solo, perché sì, vuoi per una ragione, vuoi per un'altra, comunque, ecco, avere una compagna vuol dire, uno, scendere a compromessi, e attualmente non volevo proprio disperdere un centesimo di energia per somatizzare magari qualche compromesso. E poi effettivamente c'è un malato di cancro, secondo me, proprio io ne sono la testimonianza perfetta, ha bisogno di una cosa che avrebbero bisogno poi tutti, che però purtroppo in questa società malsana pochissimi riescono ad avere, che è quella della libertà, essere libero di fare veramente ciò che uno vuole con passione e con impegno, e io questo ho la fortuna e il dono di riuscirlo a fare. Senti, volevo chiederti ancora una cosa, visto che mi hai raccontato un tuo passato da atleta, da maratoneta, sì, e che continui a correre, che vai in palestra, ho visto che hai incontrato il presidente del CONI Malagò, ma per chiedergli, sì, cosa, per fare cosa? Cosa vorresti fare col CONI? Abbiamo un progetto in atto che, ecco, abbiamo già presentato a Bruxelles proprio ieri, guarda, quindi questa cosa è fresca fresca, di realizzare appunto le Oncolimpiadi, nel senso che ho avuto questa idea geniale quando ero ricoverato in azienda ospedaliera sotto chemioterapia, che vedevo, io essendo appassionato di sport, appunto atleti che correvano, gli internazionali. Da lì ho detto, cavolo, ma ci sono le Olimpiadi per i normodotati? Sì. Ci sono le Paralimpiadi per i diversamente abili? Altrettanto sì. E poi, ecco, visto che non un uomo qualunque, ma Umberto Veronesi ha detto in uno dei suoi ultimi convegni che nel 2050 il 6% della popolazione mondiale avrà una patologia tumorale, quindi se pensiamo a grandi numeri, il 2050 è veramente dopodomani, ho pensato a proporgli a Malagò di fare le Oncolimpiadi. Tu pensa che avrebbe un messaggio di una potenza incredibile, perché un malato di cancro che sta sul letto incazzato, arrabbiato, e che non se ne fa una ragione, vede un malato di cancro come lui che corre in maniera dignitosa e non compassionevole i 60 metri, i 100 metri, i 200 metri e quant'altro. Fantastico. Quindi proprio è un evento che se dovessimo mai realizzarlo entrerò nella storia, perché verrò ricordato, verrò ricordato per questa cosa qui sicuramente. Va bene, noi per quel poco che possiamo fare con la nostra trasmissione certamente terremo viva questa torcia. Va bene? Bene, e io sono poi a disposizione qualora aveste piacere di invitarmi. Esatto, io vengo di sicuro okay. Capiterà. Grazie Leonardo, auguri. Grazie a te, avanti tutta. Ecco, Laura ci scrive: avanti tutta davvero. Questa testimonianza, scrive Laura, valgono più di un milione di parole. Un abbraccio forte a questo giovane uomo. Certo, con milioni di persone sulla soglia della povertà, la prevenzione è molto molto difficile, diventa un onere aggiuntivo. Ci scrive Raffaella Cavalieri, c'è prevenzione, certo, sarebbe bello. A Prato 18-20 mesi per una mammografia, Mario, quindi la testimonianza è importante, sì, però certamente poi bella. La prevenzione non è sempre così facile da fare, anche chi ha capito l'importanza, sì, della prevenzione. Beh, poi abbiamo partiti politici che si occupano addirittura di dire che non serve, vabbè, lasciamo stare, vabbè, non voglio neanche arrivarci. Posso dire una cosa, devi, su questa testimonianza? Sì. Solo una parola: Superman. Vero. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Standing in a crowded room. Put your arms around me, tell me everything's okay. Giovanni, cosa facciamo? Non lo so. Dove andiamo? Ma in Germania. In Germania? In Germania, ma anche in Italia andiamo. Vado al 2 e non all'1, per essere chiaro. Sì, ho capito benissimo. Allora, i tedeschi guardano con sospetto tutto quello che fa il governo italiano. Qualche volta hanno ragione, qualche volta un po' meno. Ora, tu sai, no, che c'è un piano per fare la cosiddetta bad bank, cioè un veicolo, certo, finanziario che si prende tutti i crediti un po' così, un po' incerti e li ripiazza nel mercato e così via, li recupera. Dal 2001 al 2014 le banche italiane avevano accumulato 48 miliardi di perdite. Nel 2015 tornerà l'utile. Avere un sistema bancario sano e in alcuni casi risanato, lo sanno tutti, è la garanzia, certo, per un paese per poter competere, specialmente in un mercato così globalizzato. Ecco, ai tedeschi non è che tutto questo piaccia moltissimo in realtà, perché sai, loro hanno fatto tutta una manovra sui tassi in questi anni che li ha favoriti notevolmente. Basta pensare solo al mercato automobilistico, la battaglia, esatto, tra Fiat e Volkswagen, tanto per non fare nomi, era proprio anche su questo, sugli asset finanziari, sulla capacità di dare credito, eccetera. Bene, ok, la Germania storce il naso, dice: ma come, questi adesso fanno sta roba? Bene, allora, sai a quanto ammontano i derivati della sola Deutsche Bank? I derivati della Deutsche Bank, sì, a quanto ammontano? 54 trilioni di euro. 54 trilioni di euro, sì, sono i derivati. Cioè, sì, iscritti a bilancio, tutti, là li può guardare. Tutti dobbiamo fare tirare la cinghia, fare, sì, la spending review, sì, fare tutto. E loro hanno 54 nella trilioni sola, sì, sì, di... nella sola Deutsche. Poi c'è anche Commerce e tutte le altre. Però io mi sono riguardato, senso, bene il bilancino della Deutsche stamattina. Vabbè, parliamo di una roba prima che prima di massacrare dire... la Grecia potrebbero dare una controllatina. Sì, solo darsi che, una controllatina. Solo che secondo gli indici loro hanno poco rischio, perché queste attività hanno una classificazione diversa, il che è surreale. Cioè 54 trilioni rispetto al PIL della Germania quanto è? 20 volte. 20 volte il PIL, più o meno, sì, di derivati. Bene, auguri. Ma, Sara Tardelli, tocca a te. Viviamo negli etici calici, che la bellezza infiora. Bere un bicchiere di birra potrebbe spalancarvi il mondo della scienza. In contemporanea con 8 paesi, da oggi fino a mercoledì, in 6 città italiane parte Pint of Science. È un festival della scienza nato in Inghilterra, ma sta contagiando tutto il mondo. Uno di quei festival che piace a me, un po' serio, ma anche no. Se volete capire cos'è il bosone di Higgs o quali sono le cure reali delle cellule staminali, potete farlo davanti a un boccale di birra e parlando direttamente con i ricercatori che studiano queste materie, che ci sembrano così lontane dalla nostra vita e invece sono tanto importanti da poterla rivoluzionare in meglio. Per sapere quali sono i bar dove brindare alla conoscenza, www.pintofscience.it. Ma che bravo. Bene, bene, bene. Andiamo a vedere come stanno le cose a Cannes. Dal tappeto rosso del Festival di Cannes, Pascal Vicedomini. Pascal, mi senti? Buongiorno. Ecco. Buongiorno. Allora, Vincent Cassel, cosa ha sbancato il Festival di Cannes? No. Chi ha sbancato il Festival di Cannes è Ted Sarandos, il grande capo di Netflix, accolto qui da tutti i grandi tutti produttori. A fargli la corte, insomma. Sì, tutti a fargli la corte. Beh, perché tra l'altro Netflix è stato annunciato da dicembre sarà disponibile anche in Italia, il network online che ovviamente sta creando grandi sfracelli anche nell'industria del... Sì, lo so. No, ma volevo sapere che lui è il trionfatore, però non c'ha film in concorso, quindi no, Vincent Cassel no. Due film li ha fatti, no? Sì, però come diciamo sono? Belli, ma cioè qui a Cannes piacciono molto più le dive, cioè ha fatto molto più rumore l'arrivo sulla Crasette di Cate Blanchett a rinnegare quanto era uscito sui giornali, certo, del suo film, quando appunto per lanciare il suo film Carol si era parlato di lei come bisessuale, invece è lei che è proprio una persona, direi, molto... Vabbè, era il suo film, madre. Semplicemente. Si comincia a sentire il profumo di Palma d'Oro da qualche parte? Hai qualche anticipazione? Ancora niente? Molto presto, tra l'altro i film che sono passati fino ad ora non hanno creato alcun entusiasmo, se non quello di Nanni Moretti, che è stato il trionfatore del sabato sera, molto più di Vincent Cassel. Nanni Moretti, che era talmente entusiasta che noi abbiamo pizzicato in discoteca a ballare, abbiamo mandato in onda su Iris Live from Cannes, dove appunto Moretti balla e insomma si riposa, poi l'abbiamo intervistato e lui, come dire, con molta umiltà è rimasto appunto sereno nel raccontarci. Senti, e la Blanchet è stata l'attrice più applaudita, più ammirata, chi è la donna, l'attrice che ha avuto più successo? La donna di questo festival è sicuramente Natalie Portman, la ricordate, piccolina nel film Leon di Luc Besson, adesso addirittura poi vincitrice del premio Oscar per il film Il Cigno Nero, adesso è diventata addirittura regista, questa straordinaria artista israeliana che non finisce di sorprendere. Questo film piccolino ma veramente segna una pagina per lei importantissima. Va bene. Trasformazione. Grazie Pascal. Volevo soltanto, se possibile, dire che oggi intorno alle 14 c'è ancora una puntata di Life on Cam su Iris e avremo oggi il nostro amico produttore Tarak Ben Ammar che ci racconterà il dietro le quinte finanziario del Festival di Cannes. Sarà molto interessante, sicuramente. Grazie Pascal, buon lavoro, ci risentiamo domani. Intanto Mario, ancora una bolla? Sì, dai. Le Zeppelin. Oggi ho accettato pure un consiglio a un ragazzino che forse si farà sulle colonne sonore. Vediamo un po'. Allora, Regno Unito, perché insomma mi pare logico con questa scelta. E Giovanni, oggi a Londra ci sarà la prima seduta del Parlamento dopo il voto shock. I conservatori, ricordiamo tutti, fa sempre bene, hanno la maggioranza assoluta, non accadeva dal 1992. Cameron ha vinto contro tutti i sondaggi che davano testa a testa con i laburisti e il day after del voto ha dato uno scenario che nessuno si aspettava, cioè i Tories vincenti, il Labour perdente, UKIP fuori da Westminster e i nazionalisti scozzesi terzo partito. Veramente è un altro mondo. Però c'è una cosa meravigliosa che ti dà la differenza tra noi e il Regno Unito. Da noi 500 euro adesso, no? 80 prima, 500. Noi, andiamo avanti a mancia. Andiamo avanti. Ecco, lì George Osborne sta per varare un taglio di 100.000 posti di lavoro dello Stato. Che erano stati annunciati in campagna elettorale. Sì, nel giro dei 5 anni. C'è una riunione oggi. Bene. Questa è la grande differenza. Meditate. prima di andare in pubblicità, tanti ci scrivono perché vogliono partecipare alla... fare delle donazioni a Leonardo Cenci, ragazzi. Bravi. L'abbiamo sentito prima, ripeto il sito, non so se l'avevo detto, www.avantitutta.org. Questo è il sito. Molti ringraziano per questa testimonianza, come Denise, e poi questa la teniamo per dopo. Simonetta chiede a Mario: scusami, ma dimmi, mi spieghi, Simonetta, cosa sono i derivati? Pubblicità. X24. Siamo ancora a Cannes con Paolo Del Brocco, l'amministratore delegato di Rai Cinema, che a Cannes con due film in concorso, Mia madre di Moretti, che è stato venduto in 30 paesi. Ecco, è l'inizio, è un indizio per il vincitore? Buongiorno. No, buongiorno, buongiorno a lei. Beh, insomma, sicuramente è stato molto accolto molto bene dalla critica, però le giurie di solito non si fanno influenzare né dalle vendite internazionali né dalla critica positiva. Però un'accoglienza buona è sempre un bel passo avanti. Senta, ma ci crede nella Palma d'Oro? Ma è difficile dirlo, anche se siamo un po' competitivi. Comunque sono due film, i nostri due film sono film secondo me molto belli, molto diversi tra di loro. Il film anche di Garrone ha raccolto un'ampia critica positiva soprattutto al mondo anglosassone. Ecco. Insomma, siamo qui e vediamo. Senta, so che per sentare la rassegna Certain Regard voi avete Louisiana. Che cos'è? Che film è? Beh, un film sperimentale, un film documentario di un regista molto particolare che è Roberto Minervini, che segue due realtà sociali bianche degradate della Louisiana. È un regista che scompare dietro la macchina da presa e secondo me può avere grandi possibilità. Ancora una cosa, Garrone con Il ricordo dei ricordi, in attesa di sapere se è in gara o no, diciamo, per la Palma d'Oro, intanto è già nelle sale. Come è stato accolto nelle sale? Molto bene, perché è il primo per numero di biglietti venduti, ha incassato 900.000 euro a pochissima distanza da un blockbuster come Mad Max, e soprattutto il segnale positivo è che nei multiplex ha una media copia molto spesso e risulta primo, e questo significa la discontinuità rispetto al film d'autore che può essere venduto anche nei multiplex. Quindi è un ottimo esordio, diciamo. Bene, assolutamente sì. Grazie, ci sentiamo. Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, con due film in gara. Godiamoci adesso Il lunedì libro di Alessandra Fiori. Come si racconta il presente? Quali sono le storie di questo tempo? Nel 2004 Minimum Fax pubblicava La qualità dell'aria, un'antologia di racconti di 20 giovani scrittori per descrivere la realtà del millennio appena iniziato. Ora, con L'età della febbre, 11 scrittori, sempre under 40, affrontano la scommessa di raccontare i nostri giorni. Precarietà di vita e di sentimenti, con l'ansia costante di non riuscire a tenere il passo, di non trovare un posto nel mondo, come dal titolo del racconto di Rossella Milone, che scrive, a proposito della figlia trentenne della sua protagonista. Non ha mai voluto niente, perché quello che vuole le è sconosciuto. Allora si getta a capofitto in tutto quello che le capita, convinta di trovarci qualcosa. Ma il feroce affanno dell'incertezza è un sentimento comune di queste storie del nostro tempo, come per il bugiardo descritto da Chiara Valerio, che chiama la sua vita sentimentale fare due passi, per poi dirsi che è necessario, forse, capire cosa sia una vita sentimentale. In questa età della febbre la storia resta sullo sfondo e le storie, liquide come la società, si fanno raccontare a partire dalle singole gocce. L'età della febbre, storia di questo tempo, a cura di Christian Raimo e Alessandro Gazzoglia, Minimum Fax. Bene, lunedì libro di Alessandra Fiori, Minimum Fax, cerchiamo di visto, la Fiori, aiutare, ha fatto un bel lavoro. Touch of class. Ancora una bolla, Mario. le valchirie. No. Mario, prima di parlarci prima di parlarci di che cosa delle valchirie cose, devi prima di parlare delle valchirie deve rispondere a Simonetta. Allora, che cosa sono i derivati? È una domandaccia, perché ci sono cose molto semplici e cose molto complicate. Diciamo quelle semplici. Diciamo che schematizziamo. Allora, è un contratto, che ne so, tra me e Minoli. Che cosa c'è in questo contratto? Solitamente si fanno due cose. Uno compra il rischio oppure si protegge dal rischio. In questo contratto si paga quando accade un fatto. Naturalmente per questo contratto poi c'è lo scambio di un titolo che ha un valore sottostante, che non è il valore intrinseco del titolo, ma è il valore di mercato dei beni che stanno sotto al titolo. Per esempio, io e Minoli potremmo fare un contratto sul petrolio e dire che nei prossimi 20 mesi il petrolio va a $100. Se questo accade, chi ha investito in quel titolo, in questo caso io, perché sono io che devo fare i soldi, guadagnerò il prezzo che abbiamo convenuto nel contratto. Questo che cos'è? Un future sul petrolio. Poi ci sono altri mille tipi di contratti, ma questo, diciamo, è un esempio. Vabbè, cominciamo, Simonetta, risposta. Appuntate. Voi dovete sempre ricordare, comunque, quando investite in finanza, le tre regole di Warren Buffett. Vai. La prima regola è non perdere soldi. La seconda regola è ricordati la prima regola. E la terza regola è ricordati la seconda regola. Va bene, ok. Vabbè, parliamo anche di Mamari. Dai, con ste varcherie. Allora, alla Casa Bianca, secondo me, hanno un gran mal di testa. Perché l'esercito iracheno, quello che era stato istruito dagli americani, bisogna ricordarselo, e si è ritirato lasciando il campo libero purtroppo a ISIS, a Ramadi. Ramadi, per essere chiari, è a 130 km da Baghdad. Dopo c'è Fallujah, che è una città e nota, siamo arrivati. Quindi qua devono decidere che cosa fare. Kerry, visto in visita a Seul, mi pare, ha detto che la situazione si ribalterà, pare che le milizie sciite, quindi gli iraniani stiano convergendo là. A questo punto però, come sempre, c'è il contrappasso della storia, cioè il nemico di ieri, l'Iran, è diventato l'alleato più prezioso in Iraq di oggi. È un grande contrappasso dantesco. Certo, perché la storia coinvolge il petrolio, coinvolge tutto. La storia è molto interessante. Bene, e intanto oggi, dopo il giornale radio, Marina Milone ci accompagnerà per una delle sue storie. Dove ci accompagni? Ecco, appunto, prosegue la nostra storia a puntate sul KGB e con Paolo Valentino commentiamo cosa resta della struttura dell'intelligence sovietica nella Russia di Putin, nella Russia di tutto. Oggi. Bene, hanno vinto, quindi tutto. Ne parliamo dopo. Putin viene di là. Dunque, per chi si fosse perso un pezzo di questa puntata, ricordo che, come sempre, può ascoltarla in replica questa sera alle 23 su Radio 24. Ovviamente, prima della pubblicità, la prima cosa bella di Malika. Ho preso la chitarra e suono per te. Non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capisci.